E ora questa sigla Anna la sente dal vivo, non solo per fare i podcast dopo la diretta. Sono le 8:02 minuti di questo venerdì 12 luglio, il venerdì la giornata dedicata al teatro e in tutte le sue declinazioni per l'estate. Gli appuntamenti e le kermesse procedono e proseguono. Infatti proseguono, ho detto bene, casualmente, perché già sono iniziate le due rassegne di cui vi porteremo approfondimento quest'oggi, però nella giornata di giovedì, e perdersi l'inizio insomma sarebbe stato un peccato, allora le ho inserite nel last minute. Allora, cara Anna, quando per iniziare la nostra diretta ti ho proposto Sementerie, le notti delle sementerie in quel di Crevalcore, cosa hai pensato di un teatro di paglia? Beh, ho pensato che fosse molto affascinante e anche molto bello, appunto viene descritto effimero teatro di paglia, perché giustamente è transitorio, fa parte di questa rassegna, di questa stagione, perché poi quella paglia che viene usata per creare il teatro viene poi riportata al suo uso, che è quello la sua destinazione, sua destinazione, non è sprecata, non è sprecata. Quindi c'è quel circolo che è giusto, che è molto dei tempi nostri, no? E dà una suggestione ulteriore al esatto. Teatro, un palcoscenico ancora più particolare. Siamo a Crevalcore, le notti delle sementerie, che questa volta avranno due fili conduttori, uno in particolare, di cui avremo motivo di approfondimento ulteriore, come già vi ho detto. Ma tu hai avuto giustamente una curiosità particolare, cioè il nome, esatto. Il nome Sementerie, perché sementerie? E mi è stato spiegato innanzitutto che deriva dal fatto che il luogo in cui l'associazione Sementerie Artistiche, che è l'associazione che organizza questa rassegna come altra attività durante l'anno, è ospitata in questa azienda agricola che si chiama Valle Torretta, e che dopo il terremoto del 2012 si è trovata con degli spazi che doveva riutilizzare in altro modo, e si è incontrata con l'idea di Sementerie Artistiche di creare un centro culturale. E così è. Sentiamo in maniera ancora più dettagliata l'origine del nome. Il nome nasce dal fatto che noi ci troviamo all'interno di un'azienda agricola che ha una storia antica, centenaria, e che dopo il terremoto del 2012 c'è stata la necessità di riconvertirli, e quindi la necessità dell'azienda ha incontrato anche questa nostra possibilità di creare uno spazio culturale, e quindi siccome storicamente l'azienda produceva proprio sementi, noi abbiamo colto il nome da lì, proprio perché il mettere un seme ci sembrava metaforicamente corretto rispetto a quello che stavamo facendo, andando ad aprire un teatro in mezzo a un campo sostanzialmente, quindi inaugurando proprio un percorso e un lavoro culturale in un luogo che non aveva questo tipo di attività, e quindi era proprio come mettere un seme. Perché Teatro di Paglia è uno dei luoghi più suggestivi della rassegna? Beh, direi di sì, nel senso che appunto cogliendo le possibilità che un luogo del genere dà, fin dalla prima edizione abbiamo avuto questa idea di creare uno spazio che potesse accogliere l'evento teatrale con quello che c'era lì. E lì c'era della paglia appena mietuta, perché questo teatro viene costruito in uno dei campi sotto questi enormi silos molto suggestivi, e abbiamo trovato da subito che la particolarità di uno spazio che viene costruito con un materiale che poi si disperde, ritorna e si trasforma, fosse molto vicino all'essenza anche del teatro, e quindi del contenuto, oltre che il contenitore, quindi di un'arte che vive nel momento in cui si manifesta e poi dopo si trasforma e trasforma chi ne ha fruito. Durante l'anno Sementerie Artistiche di cosa si occupa? Allora, noi siamo una compagnia, quindi abbiamo la produzione di spettacoli, facciamo corsi di formazione di teatro, di danza aerea, ospitiamo residenze artistiche, quindi c'è la possibilità di dormire, perché abbiamo una foresteria e la sala teatrale anche al chiuso. E poi appunto da quest'anno riprenderemo una rassegna invernale che si è interrotta dopo il Covid, la pandemia e tutta insomma il trambusto che ha creato per tutto il comparto, e quest'anno riprenderemo ospitando anche spettacoli nella sala al chiuso. Ecco, si chiamerà Nebbia la rassegna. squeeze the blood that runs within to the sound that they did sing. And come and see my blossom tree. The sin is so inviting. Oh, come and see my blossom tree. The sin is so. Le voci che avete ascoltato sono quella di Manuela De Meo e Pietro Traldi, che sono i fondatori e i direttori artistici di associazioni sementerie artistiche. E lo spettacolo, come ha già anticipato Will ieri, è iniziato l'11 luglio, quindi giovedì, e durerà fino al 3 agosto. Lo spettacolo inizia alle 21. Quali sono gli spettacoli? Ne abbiamo due in realtà, che adesso vedremo, che sono il cuore di questa rassegna è lo spettacolo Lisistrata, e poi ci sarà anche un altro spettacolo che tra poco parleremo, che è Il sogno di una notte di mezz'estate. Beh, sono due realtà teatrali veramente, che dire di tutto rispetto è limitante, perché parliamo allora della prima, che è Lisistrata, che è di attualità e di importanza fondamentale anche per quello che stiamo vivendo purtroppo in senso bellico. E ricordate Lisistrata nel suo classico, questa figura portata da Aristofane 400 anni prima della nascita di Cristo, quindi nel 411 mi pare. La mia passione per i classici mi sta mandando un po' così a spanne per le date, che di solito sbaglio, magari controllate, però mi pare corretto, che sia nel 400. Sì, ho una passione per queste cose che... La regia dice il notaio ha detto il che notaio è corretto. Che... Allora, Lisistrata è questa figura che invita le donne a uno sciopero dell'amor carnale, in quanto gli uomini sono più impegnati a far la guerra piuttosto che avere attenzione per le proprie compagne. Allora, sarà un'ironia, ma è molto amara. Io penso che anche se ci fosse ai giorni nostri tale sciopero, per me gli uomini farebbero la guerra lo stesso, da quello che vediamo, purtroppo. Sì, sì, è vero, anche se è una tecnica che può sempre, certo, sicuramente è una tecnica che può funzionare, però guarda, da quello che leggo tutti i giorni, sì, è veramente qualcosa di allucinante, come dico sempre, e non so se anche questa minaccia e questa carenza potrebbe riportare situazione che invece ha portato nella commedia di Aristofane, nonostante determinati passaggi che sono molto particolari. C'è addirittura una compagna di questo sciopero che viene incaricata di sedurre il suo compagno e poi lasciarlo con un palmo di naso all'ultimo momento per rendere ancora più acuta la protesta, no? Finché a un certo punto un messo, uno che vuole un araldo degli uomini, che dice: oh, noi non ne possiamo più, si presenta tra le donne visibilmente eccitato, ma anche lui viene respinto assolutamente. Poi la fine qui è un lieto fine, se vogliamo, anche se la situazione di commedia per l'antica Grecia, con questo controcoro, le voci che si sovrappongono, la bellezza del resto del teatro nasce lì, finisce con una grande festa e con le donne che decidono di riportare una normalità affettiva all'interno della coppia. We'll be right back. Questo è uno, poi abbiamo anche un altro spettacolo di cui vi parleremo magari nel dettaglio per quanto riguarda Il sogno di una notte di mezz'estate, capolavoro assoluto. Pensa che lo vidi in una versione, certo da teatro, però riportata in TV, e se ricordate inizia con la voce di queste streghe, perché e io da bambino lo vidi che avevo 7-8 anni, non sapevo se spegnere o guardare qualcos'altro, ma ne ero troppo affascinato. Ma all'inizio fa un po' paura in questa foresta palude dove le streghe parlano. Infatti è un, come vedremo, è uno spettacolo che viene riproposto, perché è stato un tale successo nelle tre edizioni precedenti che anche quest'anno viene riproposto. Hanno deciso viene riproposto. Di riportarlo. Esatto. Allora entriamo nel dettaglio di questi programmi. E intanto allora qualche riflessione personale, anche se non richiesta. A questo punto, quando Pietro e Emanuela mi hanno chiesto cosa facciamo quest'estate, io avevo già pronta la risposta all'Isistrata, che era da tantissimo tempo che pensavo di voler fare, e in questo momento storico mi è sembrata assolutamente necessaria, nel senso che abbiamo deciso di parlare di una cosa che può sembrare ovvia ma non credo che lo sia, cioè dell'insensatezza della guerra in sé. In più, come già dicevano loro, in un luogo del genere la commedia greca, cioè, ci va a nozze praticamente, perché come saprai la commedia greca, no, che veniva fatta per le feste di Dioniso, per il popolo, ecco, quello che succede a Sementerie Artistiche è uno spettacolo itinerante che coinvolge la popolazione nel teatro di paglia, come che anche a livello prosemico, no, il pubblico entra a far parte del nostro discorso, e l'Isistrata per questa ragione, e poi perché l'Isistrata è una donna politica in un'epoca in cui le donne non potevano nemmeno studiare, quindi lei ha studiato da sola ed è andata contro però quello che stava succedendo alla sua città in quel momento lì. E io ero molto interessata a passare questo messaggio, cioè l'Isistrata, come dicevi giustamente tu, scioglie gli eserciti attraverso in realtà l'amore, lo sciopero del sesso, ma in realtà attraverso l'amore, cioè non è una vera lotta di due poteri bellicosi, no? Cioè l'Isistrata col suo esercito di donne, che nel nostro caso non sono solo donne ma tutte le persone che la guerra la subiscono, per cui tutte le persone tranne una piccola minoranza di anziani conservatori abbiamo tenuto nel nostro allestimento, attraverso questo enorme scioglimento dei conflitti, attraverso discorsi politici molto competenti e pertinenti, ma anche attraverso l'allegria e l'amore, scioglierà piano piano tutti questi nodi. E secondo me è importantissimo, perché attraverso l'allestimento di l'Isistrata le persone riescono a vivere questa cosa attraverso un rito, non attraverso una rappresentazione. Cioè il pubblico vive la stessa cosa che racconta la trama. Cioè inizia che vedi, no, tutte le parti coinvolte, ma piano piano non ti ricordi neanche più perché eravamo in conflitto all'inizio. Quindi è abbastanza fedele alla commedia originale? È assolutamente fedele, a parte il fatto che abbiamo lavorato molto anche su Canovaccio, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di personaggi secondari, non professionisti, che affiancano i sette attori. Quindi i sette attori sono molto fedeli al testo originale, abbiamo fatto dei minuscoli adattamenti, ma più che altro delle integrazioni. Cioè quello che dico sempre a loro, il testo c'è tutto, poi c'è di più però. Nel senso che anche questo coinvolgimento del coro, che sono persone del paese, hanno lavorato tantissimo con me e poi dopo anche con gli attori, e per cui ad esempio loro portano un prologo e un epilogo che abbiamo scritto noi, quindi è integrato, però non è attualizzato, è Aristofane. A parte che c'è poco da attualizzare in Aristofane, è davvero, io poi non amo dire che tutto è sempre attuale, però Aristofane è davvero molto attuale. Thank you. come la classicità si trasforma in un groove, in uno dei dischi, e vi assicuro ne ho tanti, questo è uno dei più belli che ho in assoluto. Si può riportare come colonna sonora Sogno di una notte di mezz'estate, perché è una formazione di 9 musicisti dove il frontman è Gianluigi Trovesi, dal titolo Roundabout a Midnight Summer Dream. Sono entrato in macchina, acceso la radio, ho sentito questo pezzo di musica classica. Che cos'è? Mi ricorda La follia di Corelli, ma Shazam non la trova. No, non credo che si riesca a trovare questo brano, quindi attraverso le vostre ricerche, ne sono molto onorato, tra l'altro anche perché amo alla follia questo disco per Enya Record, Gianluigi Trovesi Nonet. Oh, ci sono tutti, è un All-Star Game, c'è Gianluigi Trovesi, c'è Jean-Louis Matinier alla fisarmonica, Renaud Garcia Fons al contrabbasso. È dedicato a Sogno di una notte di mezz'estate, anche se ha riportato una mezzanotte, visto le tematiche e la copertina bellissima. Riletto da questi 9 musicisti, dove il frontman è Gianluigi Trovesi, il brano, a proposito dei personaggi di apertura della commedia dell'immenso Shakespeare, C'era una strega, c'era una fata. Sogno di una notte di mezz'estate, qui sono preparato, scritto nel 1596, riportato poi in scena nel 1600 dal grandissimo bardo tutti i tempi, William Shakespeare. Condivido unicamente il nome con lui, ne sono onorato, ma non è certo qualcosa che si possa paragonare, però indubbiamente questo è l'ennesimo capolavoro del grandissimo, che viene riletto e riportato dalle sementerie artistiche per le notti delle sementerie. Ti è piaciuta questa scrittura musicale, Anna? Moltissimo, poi sei sempre fonte di novità. Di novità, di o novità per novità. Me magari, perché altri lo sa. Poi Shakespeare con i personaggi di questa drammaturgia, non so, c'è Oberon, c'è Titania, c'è un riferimento alla classicità sempre, certo, comunque presente. Allora, bando alle mie divagazioni musicali, parliamo della rassegna che è partita ieri, giovedì 11 luglio, sarà per tutta l'estate, si può dire. Sì, l'ultimo serata di spettacolo è il 3 agosto. Sì, quindi la prende perfettamente. Esatto. Mezza estate. Esatto, guarda, esattamente. La voce che abbiamo sentito nel contributo di prima è quella di Gloria Giacopini, che è la regista. Ah, grazie, ecco, così abbiamo dato precisazione anche per chi sta dialogando con noi. No. È alla regia per entrambi gli spettacoli? No, solo per l'Isistrata, che è il cuore della rassegna dell'edizione di quest'anno, che non l'ho detto perché oggi... No, l'avevi accennato, accennato, che è un po' il nucleo. Che è la nona edizione, quindi appunto la regista è Gloria Giacopini. E quindi gli spettacoli da ieri, che è iniziato, fino al 3 agosto, si alternano tra l'Isistrata e Sogno di una notte di mezz'estate. E noi concludiamo le nostre conversazioni per portare la kermesse, come facciamo ogni anno, ti ho tratta un po' in inganno perché lo conosco benissimo, l'ho seguito dall'inizio del Breakfast Club, le sementerie artistiche, non avevo dubbi. però insomma volevo sapere anche il parere di chi si avvicinava per la prima volta. Concludiamo con le voci dei due direttori artistici? Certo, che dicono meglio di me esattamente come proseguiranno gli spettacoli e anche come accedervi. Isistrata quest'anno è un po' il cuore di questa edizione, ma non è l'unico spettacolo che viene presentato durante le notti delle sementerie. L'altro spettacolo è Il sogno di una notte di mezz'estate, che è un progetto di sementerie nato 2 anni fa e che ha per noi iniziato questo percorso di costruzione e creazione di spettacoli che possano includere il più possibile tutta una serie di persone che arrivano a sementerie, si avvicinano e vogliono fare parte di questo rito, appunto. Quindi 10 sono le repliche che